E dunque, prova tecnica di trasmissione sino alle 22.30 e poi ci sarà 25 o'clock che andrà avanti sino nel cuore della notte. Ricordo il radioabbonamento che stiamo attuando fino a settembre, campagna che si può trovare sul nostro sito cliccando su un banner specifico e scegliendo le modalità di adesione. 30 euro per 1000 ascoltatori e per questa realtà che da sempre è autogestita. Iniziamo questo programma con il dirvi che potrebbe anche essere che nel corso di esso ci potrebbe essere la possibilità di mandare un intervento da Genova, dalla scuola Diaz. Ricordiamo, per il 20° anniversario dell'uccisione di Carlo Giuliani c'è un'iniziativa anche alla tragicamente famosa scuola Diaz. E quindi più avanti si vedrà se ci sarà questo appuntamento con qualche nostro corrispondente oppure meno. Salutiamo Maya in Sardegna, Nadir persegue una Dios, Laura Spirit Crusher, Francesco Cornello in quel di Bergamo. Enrico Cerrato di Petrolio. Like a Wake, eccetera, eccetera. E noi invece andiamo ad iniziare con andarci ad ascoltare un graditissimo ritorno di un personaggio che nobilitò la scena, diciamo, trance degli anni 90 attraverso la KK di Anversa, la Nuova Zembla, che era la, diciamo, la sussidiaria trance di quella bella esperienza. Lo avevamo dunque perso di vista, anzi gli ultimi album, adesso che mi ricordo, uscirono anche per l'Antzen e per la Himen, quindi più recentemente, ma alla fin fine erano molti anni che non sentivamo parlare di John Sellekers, questo è il vero nome di Xingu Hill. Artista di origine canadese che è tornato in auge con un nuovo lavoro dal nome Observer Effect. Il tutto attraverso però la nostra etichetta, la romana Glacial Movements di Alessandro Tedeschi di Netherworld. E quindi in maniera inevitabile, data la presenza in questa label, ha cambiato radicalmente suono, avvicinandosi a tematiche più affini al dark ambient, allo space ambient e accenni di IDM. E quindi con piacere cominciamo ad ascoltarci la prima traccia di questo Observer Effect, che porta il nome di On the Trail. Il ritorno dunque di John Selkers con il suo Observer Effect, come già detto abbastanza lontano dalle vecchie produzioni Xinguil degli anni 90, e non è un caso l'approdo alla Glacial Movements, questa interessante realtà romana di Alessandro Tedeschi, già detto in precedenza come Netherworld, etichetta specializzata in space ambient, in atmosfere siderali e rarefatte. Non ultimo, infatti, e non è un caso, la copertina piena di ghiacci proprio di questo Observer Effect, molto simile a tanti altri progetti che sono sotto le ali, diciamo, di questa etichetta. Intanto si è allargato il partel di ascolto, per cui andiamo a salutare Nicola Locci di Stigmate, Giovanni Campagna in quel di Londra come Sound Dog 65, Enrico Cerrato di Petrolio, Jean-Claude Berthaud della Val d'Aosta, Simona Pietrucci di un interessante progetto frusinate di area Minimal Dark Wave dal nome Sorry Hills, insieme a Davide Messina, che abbiamo apprezzato lunedì scorso e che apprezzeremo anche la prossima settimana. Andy Rivieni di Attualità Nera, anche lui dal Piemonte. Adesso invece facciamo un viaggio in quella meravigliosa isola che è la Sardegna, che è anche fucina di tanti talenti, il già citato Nicola Locci, ma anche in questo caso Sara Cappai. Sara Cappai ha fondato una nuova avventura sonica dal nome Memory of Shu ed esordisce appunto con questo nome, con quattro tracce che ci rimande alle bellissime sonorità, per esempio, dei Seafill, della Warp Music di Sheffield, una versione di Seafill ancora più agghiacciante, se vogliamo, ovviamente in senso buono. Questa uscita dal nome Life at the Seaside si può trovare su Bandcamp cercando proprio Memory of Shu. Si apre questo lavoro con Entrance e poi c'è la terza traccia dal nome Before This Fire. Thank you. l'algido intimismo di Memory of Shoe, Life at the Seaside, secondo EP per questa formazione sarda. Un viaggio onirico al pari dell'iniziale John Sellekers. Sara Cappai e Gianmarco Cireddu, la chitarra e al dronin, strumento che anche il buon Nicola Locci conosce bene. Dunque, atmosfere così immobili e contorte che in parte appunto ci hanno ricordato gli Seafill più freddi e sintetici. E adesso un viaggio che ci porta molto lontano, esattamente in Cina. E questo grazie a Anthology of Experimental Music from China. Vari artisti che vengono da laggiù assemblati e che ci ha fatto conoscere il buon Raffaele Pezzella, factotum della, appunto, della Nesplay Sounds Group e di altre etichette a lei parallela. Questo è un compendio che è uscito proprio da qualche tempo, un mesetto circa. Ci sono 16 artisti abbastanza distanti e diversi tra di loro, e quindi questa sera cominciamo con l'ascoltarci Liang Yiwan con The Confucian Pleasure Puppet, Broken Fruits con la breve Vageli, anche qui molto onirica, e poi la più contorta Vavabond, che è il nome sia della traccia che sia dell'artista. Liang Yiquan, dalla forte valenza etnica e mantrica, questo The Confusion Pleasure Puppet, sul quale saluto Fulvio Biondo di Solar Lodge. Avanti questa compilation di materiale proveniente dalla Cina, e lo fa con Broken Throats. Questa traccia si chiama Vaguely Remembered, titolo completo. Sì, raffinato ma anche astratto per molti aspetti, questa traccia di Broken Through. Si va avanti con Vavabond, e qui andiamo nel magma elettroacustico di questo artista cinese, appunto Vavabond, la traccia ma anche l'artista. Vento sonico, ma anche materiale glitches, il classico errore digitale di tanta produzione IDM che ha contraddistinto questo artista cinese dal nome Vavabond. Andy Rivieni ci dice che somiglia anche a un altro polacco a me sconosciuto dal nome Emzent. Casomai ci mandi qualcosa in privato, ce lo studiamo e lo mandiamo. Comunque anche per questa sera tre estratti da Anthology o Experimental Music from China, Chinese Music Survey, ad opera del grande Raffaele Pezzella, grande ricercatore di musiche altre, di altri continenti, di altre culture. Indubbiamente anche contenuti etnici, però filtrati attraverso una sensibilità decisamente elettronico-industriale. Qualche minuto fa ho anche salutato, a parte vado a salutare Lucia Cagliazza di Lupsi, anche lei spesso mandata da queste parti, una grande artista italiana. Dicevo, avevo iniziato con andare a salutare Enrico Cerato di Petrolio e Alberto Clipper, entrambi vengono da Asti. Asti è una città che ospita tanti talenti, anche Wurnus Island, che manderemo verso la fine della trasmissione. E registriamo una collaborazione interessante per l'appunto tra Enrico Cerrato in Arte Petrolio e Alberto Clipper come MDMA, un acronimo puntato. Insieme hanno fatto questo Back of Heart Jesus, credo autoprodotto, che incontra gli strappi Death Ambient Noise di Enrico Cerrato con parti diciamo anche più elettroniche di Alberto Clipper. Si apre con il brano omonimo, per l'appunto Back on Heart Jesus. vero e proprio magma sonoro ideato da Enrico Cerrato con Petrolio e MDMA di Alberto Crippler. Li salutiamo entrambi da Asti, ed hanno fatto insieme questo interessante Back on Earth Jesus, pregno di suggestioni assai diverse nell'album, tante soluzioni assemblate però egregiamente in questo lavoro che ci ascolteremo anche la prossima settimana. Lasciamo per adesso l'Italia e andiamo negli Stati Uniti degli Hyde. Ultima fatica si chiama Interior Terror, uno dei migliori dischi di questo 2021. Una sorta di Lydia Lunch in salsa industrial, più elettro industrial, con qualche attinenza anche alle vecchie esperienze degli Skinny Puppy. Ci ascoltiamo tre esempi di tensione veramente ai limiti con questa Flag, Laugh Track, This Blood, le ultime tre tracce che vanno a chiudere questo lavoro uscito nel maggio di quest'anno. Fendenti arcigni, eventi uditivi potentissimi questi, Hyde, da Interior Terror, quarto lavoro del 2021, loro sono Heather Gable alla voce, come ho già detto un po' a metà tra Annie Anxiety e Lydia Lunch, e le macchine manipolate da Seth Shear provengono da Chicago. E sono una delle cose più interessanti degli ultimi anni, a mio modestissimo giudizio. Torniamo in Italia, il buon Daniele Ciullini. Anche lui faceva parte di quella generazione old school industrial degli anni Ottanta. Molti, molti anni di silenzio e poi il ritorno con molti lavori da pochi anni. Ha recuperato un lavoro del 1981 dal nome Disaster Noise attraverso la svizzera Lucesia di Sasha Rovelli e Bojan Basic. Riveduto e corretto in alcune parti e diviso in due tracce, a loro volta divise in svariati segmenti. E da Disaster Noise lato A ci ascoltiamo gli ultimi due episodi, Industrial Pison e Toxic Hypnosis, arrangiati anche attraverso la perizia di Gianluca Becuzzi.